Componimento ottavo dei canti di Giacomo Leopardi. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Inno ai patriarchi o de principi del genere umano. E voi, de figli dolorosi il canto, voi dell'umana prole incliti padri, lodando ridirà. Molto all'Eterno degli astri agitator più cari, e molto di noi men lacrimabili nell'alma luce prodotti, immedicati affanni, al misero mortal nascere al pianto, e dell'etereo lume assai più dolci, sortir l'opaca tomba e il fato estremo, non la pietà, non la diritta impose legge del cielo. E se di vostro antico error che l'umana seme alla tiranna possa de morbi e di sciagura offerse, grido antico ragiona, altre più dire colpe de figli e requieto ingegno e demenza maggior l'offeso Olimpo n'armaro incontra e la negletta mano dell'altrice natura, onde la viva fiamma n'increbbe e detestato il parto fu del grembo materno e violento emerse il disperato erebo in terra. Tu primo il giorno e le purpuree faci delle rotanti sfere e la novella prole de campi, o duce antico e padre dell'umana famiglia, e tu l'errante per li giovani prati aura contempli. Quando le rupi e le deserte valli precipite l'alpina onda feria di nudito fragor, quando gli ameni futuri seggi di lodate genti e di città di romorose ignota pace regnava, e gli narati colli solo e muto ascendea l'aprico raggio di Febo e l'aurea luna. O fortunata di colpe ignara e di lugubri eventi, erma terrena sede, oh quanto affanno al gener tuo padre infelice, e quale d'amarissimi casi ordine immenso preparano i destini. Ecco, di sangue gli avari colti e di fraterno scempio furor novello in cesta, e le nefande ali di morte il divo etere impara. Trepido, errante il fratricida, e l'ombre solitarie fuggendo e la secreta nelle profonde selve ira de venti, primo i civili tetti, albergo e regno alle macere cure innalza, e primo il disperato pentimento i ciechi mortali egro anelante aduna e stringe ne consorti ricetti, onde negata l'improba mano al curvo aratro, e vili fur gli agresti sudori. Ozio le soglie scellerate occupò, ne corpi inerti domo il vigor natio, languide ignave giacquer le menti, e servitù le imbelli umane vite ultimo danno accolse. E tu dall'etra infesto e dal mugghiante sui nubiferi gioghi e cuoreo flutto scampi l'iniquo germe, o tu cui prima dall'aer cieco e da natanti poggi segno arrecò d'instaurata spene la candida colomba, e delle antiche nubi l'occiduo sol naufrago uscendo l'atro polo di vaga iri dipinse. Riede alla terra e il crudo affetto e gli empi studi rinnova e le seguaci ambasce la riparata gente. Agli inaccessi regni del mar vendicatore illude profana destra, e la sciagura e il pianto a novi liti e nove stelle insegna. Or te, padre de pii, te giusto e forte, e di tuo seme i generosi alunni medita il petto mio. Dirò siccome, sedente, oscuro, in sul meriggio all'ombre del riposato albergo, appole molli, rive del gregge tuo nutrici e sedi, te de celesti peregrini occulte, bear le teree menti, e quale, o figlio, della saggia Rebecca, in sulla sera, presso al rustico pozzo e nella dolce, di pastori e di lieti ozzi frequente, aranitica valle, amor ti punse, della vezzosa Labanide, invitto, amor, ch'a lunghi esigli e lunghi affanni e di servaggio all'odiata soma, volenteroso il prode animo addisse. Fu certo, fu, né d'error vano ed ombra, l'aonio canto e della fama il grido, pasce l'avida plebe, amica un tempo al sangue nostro e dilettosa e cara questa misera piaggia ed aurea corse nostra caduca età, non che di latte onda rigasse intemerata il fianco delle balze materne o con le greggi mista la tigre ai consueti ovili ne guidasse per gioco i lupi al fonte il pastorel, ma di suo fato ignara e degli affanni suoi vota d'affanno visse l'umana stirpe alle secrete leggi del cielo e di natura indutto valse l'ameno error le fraudi il molle pristino velo e disperar contenta nostra placida nave in porto ascese tal fra le vaste californie selve nasce beata prole a cui non sugge pallida cura il petto a cui le membra fera tabe non doma e vitto il bosco nidi l'intima rupe onde ministra l'irrigua valle inopinato il giorno dell'atra morte incombe oh contra il nostro scellerato ardimento inermi regni della saggia natura i lidi e gli antri e le quiete selve apre l'invitto nostro furor le violate genti al peregrino affanno agli ignorati desiri educa e la fugace ignuda felicità per l'imo sole incalza. Fine del componimento ottavo.